la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi, vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta. Queste parole drammaticamente profetiche sono del collega Walter Tobagi, ucciso stamane da un commando di terroristi. Le aveva pronunciate ieri sera al Circolo della Stampa di Milano, partecipando a un dibattito sulla crisi della società italiana. Tobagi, originario di Spoleto, aveva appena compiuto 33 anni, guidava l'Associazione Lombarda dei Giornalisti dal 1978. L'hanno colpito con due colpi di pistola, alla nuca e alla schiena, nei pressi della sua abitazione al Parco Solari. La moglie, con una figlia di 3 anni, lo stava raggiungendo dopo aver fatto alcune spese. Un altro figlio di 7 anni era a scuola. Benedetta Tobagi è la bambina di 3 anni di cui si parla in questo vecchio servizio RAI. Oggi Benedetta è un'intellettuale, figlia di un dolore, madre di una speranza. La speranza di dare voce alla storia e rivelarne i lati oscuri. Purtroppo a me verrebbe da dire che in qualche modo io l'infanzia non ce l'ho avuta, perché l'omicidio di mio padre, con 3 anni, comunque è come se avessi virato tutto dal colore al bianco e nero. Io sono sicuramente stata una bambina molto silenziosa e guardavo e non parlavo, per esempio. E forse per questo mi è rimasta così intensa l'impressione dello spazio di salvezza, in qualche modo, che veniva dalla vita interiore, che era quella dei giochi inventati da sola, piuttosto che io sono stata una lettrice molto precoce. E rispetto a questo devo dire che io ho, in maniera molto, come posso dire, molto asciutta, parlato della mia infanzia nel primo libro dedicato alla storia di mio padre, e devo dire che una delle cose più belle in assoluto che mi sono tornate indietro dai lettori sono state le lettere di chi mi ha scritto: io mi sono riconosciuto o riconosciuta nelle tue parole. Cioè, io sono stato un bambino traumatizzato, un bambino che ha sofferto, un bambino non ascoltato, e ho sentito la mia voce nelle tue parole, e quella è una delle cose più belle che ti possano essere detto quando scrivi. 6 anni prima, il 28 maggio del 74, a Brescia, nella centrale piazza della Loggia, una bomba nascosta in un cestino porta rifiuti esplode mentre è in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista indetta dai sindacati e dal comitato antifascista. Nell'attentato perdono la vita 8 persone, 102 restano ferite. Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! Franco Castrezzati cede il microfono a un altro sindacalista, Giorgio Leali. Deve assistere il proprio fratello che accorre verso di lui tutto coperto di sangue. Ha un'arteria rotta. Castrezzati strappa il cavo di un altoparlante per usarlo come laccio emostatico. Corre, vede un paio di occhiali per terra. Sembrano quelli di sua figlia. Invece no, lei è salva. Sono di Giulietta, scopre dopo, una delle insegnanti della CGIL. Vagando nella piazza, si trova davanti al corpo mutilato di Alberto Trebeschi. Lo riconosce subito perché è amico di suo padre, Cesare. Sono stati in galera insieme nel 1944. Nell'ora d'aria si scambiavano informazioni, terribili per lo più: chi sarebbe stato fucilato, chi era stato caricato sui treni per i campi. Allora Trebeschi, per risollevare gli animi, spesso gli diceva: «Vedi, noi stiamo soffrendo, però i nostri ragazzi almeno avranno una vita tranquilla». Anni dopo gli mancano ancora le parole per descrivere cosa ha provato vedendo il figlio del suo amico a terra, ucciso in quel modo. Livia non deve aver sentito praticamente nulla. L'immagine che si è portata via sono gli occhi azzurri e sorridenti del marito che le viene incontro. Manlio corre verso di lei. In quel momento non pensa a nient'altro. Dimentica gli amici, tutto. La trova, la stringe. Gli sembra che respiri ancora. Forse è solo svenuta. Irragionevolmente spera. «È morta», gli dice brutalmente un'infermiera all'ospedale. Il 28 maggio è una data che Benedetta Tobagi ricorda bene. Per una strana casualità sarà lo stesso giorno in cui, 6 anni dopo, le uccideranno il padre. E quel gesto folle sarà l'inizio della sua nuova vita. Dopo tanti anni, Benedetta Tobagi racconterà quel dolore nel libro bellissimo «Come mi batte forte il tuo cuore». Oggi la Tobagi ha scritto un nuovo libro per raccontare quell'altro 28 maggio, quello di Brescia del 74, nel libro «Una stella incoronata nel buio». Io sono stata attratta inizialmente verso la storia della bomba di Brescia da una coincidenza potentissima, evocativa, impressionante oserei dire, che è una coincidenza di date. La bomba scoppia il 28 maggio del 1974. Il 28 maggio di 6 anni dopo, quando io ho 3 anni, sempre la mattina, sempre una mattina piovosa in cui non sembrava neanche fosse maggio, mio padre Walter Tobagi viene assassinato. Per cui una strage neofascista, un omicidio fatto da una banda armata di sinistra a 6 anni di distanza, ma esattamente lo stesso giorno, senza una connessione causale tra i fatti. Però la coincidenza di date mi ha portato a riconoscere una serie invece di fili e di legami molto profondi. Prima di tutto collegavano me ai personaggi di questa storia. Io vorrei precisare una cosa per i lettori. Io ho cercato di costruire la forma narrativa più avvolgente possibile, ho proprio cercato di dare il meglio da questo punto di vista, però sono stata altrettanto rigorosa nell'attenermi ai dati di realtà. Ci sono soltanto delle minuscole incursioni che sono per così dire fiction, nel senso che io ho dovuto completare con l'immaginazione scene di vita delle persone realmente esistite che racconto, però ho dovutamente spiegato al lettore in alcune note in fondo laddove mi sono presa questa libertà. Perché il senso la prima cosa che mi è stata restituita questa coincidenza del 28 maggio con una tragedia che avevo personalmente vissuto era un desiderio profondissimo di andare a recuperare la traccia di delle vite che erano state distrutte, questo è stato primario. Io ho scoperto questo legame molto profondo con una persona che è diversissima e lontanissima da me per l'anagrafe, per la biografia, che è un sopravvissuto di questa strage, Manlio Milani, che diventa nel corso di questo viaggio, che poi diventa una stella incoronata di buio, diventa proprio il mio mentore, il vecchio zio comunista che non ho mai avuto, un uomo di 75 anni ormai, che però condivide con me l'essenza dell'esperienza, del sopravvissuto e del testimone della tragedia. Oltre a questo, il nesso profondo che era rivelato dalla coincidenza di date è il nesso inscindibile che lega ogni strage impunita italiana a tutta la scia degli omicidi del terrorismo di sinistra. È un nesso storico che esiste tra due pagine violente, sanguinose della nostra storia e attraverso le microstorie di queste persone e il mio incontro con loro ho voluto ripercorrere anche questa pagina. Da un certo punto di vista devo dire che a un certo punto è come se la storia avesse proprio cominciato a fiorirmi tra le mani, perché mi sono resa conto che una vicenda apparentemente marginale non fosse altro dal punto di vista geografico, Brescia, città di provincia. In realtà mostrava un'ampiezza e una ricchezza e una quantità di agganci con la storia nazionale e internazionale che mi ha lasciato stupefatta. Allora lì sono stata sicura che c'era il libro. Il libro, perché c'è tutta l'Italia di allora e di oggi attraverso questa piccola, piccola relativamente storia. Sì, non tanto piccola, infatti, appunto, alla fine, perché è proprio la fotografia, sì, di un paese. Piccola circoscritta, potremmo dire così. Esatto. È come un cristallo attraverso cui poi si riflette qualcosa di molto più grande e policromo. Le leggo questa cosa che probabilmente lei ha già letto di Gad Lerner, che secondo me è molto bella e forse riesce a descrivere in poche righe proprio la spinta che poi produce dei libri così belli suoi. Allora, Lerner scrive: del bisogno di capire, elaborato attorno a una ferita non rimarginabile, Benedetta ha fatto una scelta di vita, raccogliendo dal giornalista Walter Tobagi non solo l'impegno civile ma anche l'inesausto spirito di ricerca. Questa è, secondo me, un po' tre righe che raccontano molto la sua scrittura, perché nella sua scrittura c'è molto rigore anche. È quanto dicevo prima, questo mio grande desiderio di trovare una forma narrativa per raccontare qualcosa di reale. Sicuramente ho accolto molto, molto bene Gad Lerner questo aspetto, però io lo vorrei collegare a qualcosa di più ampio. Io credo che chi si mette a scrivere, specialmente in tempi recenti, al giorno d'oggi, avverte veramente una fortissima urgenza, perché per quanto la narrativa non sia inattuale come la poesia, sicuramente la forma del libro, che è lunga, che richiede una gestazione molto, molto lunga, dietro questo libro ci sono 4 anni di lavoro, di ricerche, sicuramente deve avere un'urgenza molto forte. Allora, credo, per lo meno questo è quello che è accaduto a me, la prima domanda che ti fai è non solo perché stai scrivendo, ma soprattutto ti rompi la testa per trovare il modo giusto, il modo più adatto per dire le cose che devi dire, cioè la forma si deve compenetrare con il contenuto. E allora il rigore della ricerca era necessario, perché era tutt'uno con l'urgenza di comunicare, perché il mio bisogno di andare a ripercorrere certe pagine violente, confuse, secretate della nostra storia. Io all'inizio di questo libro dico che l'Italia delle stragi è come una famiglia dove è accaduto un incesto, dove ci sono delle cose di cui nessuno vuole parlare, anche se a un certo punto vengono fuori, poi si cerca di cancellare tutto, di far finta che non sia successo niente. C'è un film straordinario, Festen, che scrive una situazione come quella per dare l'idea agli ascoltatori. E allora il lavoro di documentazione è necessario, perché è il gesto che va contro tutta questa violenza che si è aggiunta alla violenza, che è il silenzio e l'oblio, no? Che sono come una forma supplementare che ritraumatizza chi è sopravvissuto, perché vuole cancellare le responsabilità di chi ha provocato la ferita, in questo caso la strage. La prima volta. La storia di oggi è la storia di Benedetta Tobagi, la sua prima volta a inizio tanti anni prima, quando ancora bambina deve far fronte al peggiore dei dolori, l'uccisione del padre. Benedetta oggi è una donna, amante della poesia, studiosa di storia, una bravissima scrittrice che ha dato voce a pagine di storia del nostro paese. Il suo ultimo romanzo affronta la strage di Piazza della Loggia, ma è, come sempre accade, un lascia passare per guardare nelle pieghe del nostro paese e dar voce al dolore di chi, ignaro di tutti, una mattina si è visto portare via l'amore per mano di una bomba. Volevo partire proprio ovviamente dall'ultimo suo romanzo, Una stella incoronata di buio. Anche in questo caso, come nel romanzo precedente, il titolo viene estratto da una poesia, è così? Esattamente, in questo caso il poeta è vivente, è il friulano Pierluigi Cappello, e credo che questa scelta nasca dal fatto che la poesia per sua natura è ricca di una pluralità di significati, per cui ciascun lettore, nel momento in cui poi si accosta al libro, potrà capire fino in fondo per conto proprio quanti sono i significati racchiusi nel titolo Una stella incoronata di buio. Per parte mia mi è piaciuto anche in questo caso trovare un titolo che fosse un pochino spiazzante, in qualche modo adatto anche alla forma narrativa che ho cercato, che è sì narrativamente quella di un romanzo, però un romanzo costruito interamente con fatti di realtà documentali. Prima di entrare proprio nello specifico del romanzo, una mia curiosità, volevo chiederle se lei è una lettrice di poesie. Sì, accanita. Sì. Ovviamente. Perché è un po', diciamo, una tipologia di lettore di nicchia, estremamente di nicchia ormai, anche se sembra che stia ritornando in auge la poesia, il bisogno di poesia. Ma io sono rimasta molto colpita per esempio dall'incontro con il poeta Pierluigi Cappello, perché mentre nel primo caso ero, per così dire, nascosta sotto la gonna della Jane Borska, per cui una grandissima poetessa Nobel, ma oltretutto defunta, in questo caso ho avuto poi il piacere di poter entrare in contatto con questo poeta, che peraltro ha soltanto una decina d'anni più di me. E mi ha colpito moltissimo che lui ha descritto, secondo me in una maniera molto azzeccata, la poesia come innanzitutto come una postura esistenziale differente. La scrittura poetica è caratterizzata dalla piena gratuità, ancora più di ogni altra forma di scrittura, e in questo senso sono d'accordo con lui quando dice che non c'è niente di così inattuale, così contrario rispetto a proprio il modo di vita contemporaneo com'è la poesia. E devo dire, mi sono piaciute queste parole perché ci ha riconosciuto il motivo per cui vado a leggere poesia. Per me è come una forma di riequilibrio, di disintossicazione, e il motivo per cui nei miei testi poi ci sono molte citazioni, riferimenti, immagini. Anche internamente ci sono dei titoli di capitoli che sono presi da versi di poesie. Attingo a queste immagini anche per pensare e spiegare cose molto concrete, fatti storici e politici. Io trovo nella lettura della poesia proprio una forma di apertura da una parte, di bilanciamento dall'altra. Senta, le faccio invece una domanda che mi incuriosisce, perché appunto vorrei sapere, cioè, lei quando scrive, cioè, che tipo di giornata ha? Perché a me incuriosisce sempre molto questo tratto, insomma, di chi scrive, cioè come si struttura la sua giornata, scrive di notte, di giorno? No, allora io sono, beh, prima di tutto ho sempre fatto anche altre cose accanto alla scrittura, per cui c'è un primo problema di incastri, però tendenzialmente devo dire io sono una diurna. Per me sono le ore del mattino, per esempio, sono preziosissime, e in realtà ho capito col tempo, con gli anni, che ci sono proprio due fasce di orario che corrispondono anche a delle forme di scrittura che credo i lettori possono riconoscere abbastanza facilmente leggendo il mio libro. Cioè c'è una parte, diciamo così, più in cui il racconto è più compenetrato anche dalla ricostruzione dei fatti. In questo caso ci sono fatti storici, ma ci sono anche vicende processuali, eccetera, eccetera, e quella è sicuramente la scrittura della mattina presto, cioè il momento in cui c'è la massima chiarezza mentale. Devo dire che tratti cerco di ritagliarmi proprio dei momenti di scollegamento quasi completo dalla realtà, dagli altri impegni di lavoro, che mi consente invece di scrivere anche alla notte piuttosto che nei momenti più assurdi, per potermi invece immergere e abbandonare e produrre le parti che invece hanno una natura più narrativa e delle volte anche più evocativa. La cosa che ho capito è che non si dice mai, per cui ne approfitto per dirla, perché dovete avere più rispetto per gli scrittori e il loro tempo, è che la scrittura ha un bisogno disperato, che non viene riconosciuto quasi mai, dei tempi morti. In questa società iperefficiente lo scrittore è terrorizzato dai tempi morti, anche perché è pressato non solo dalle scadenze ma dal impegno di lavoro, per cui anche le giornate in cui magari si resta davanti alla pagina e sembra di non fare niente perché ci si è bloccati, perché si sta pensando eccetera eccetera, vengono vissute da molti. Sicuramente a me è capitato di viverle così, con senso di colpa, come se non si fosse efficienti. Invece la cosa che è interessante in un certo senso è quasi andare a guardare quando lo scrittore si concede di non scrivere, e più si impara a concedersi questi tempi morti in cui è come se sono come le cellule che si rigenerano, il cervello va senza che ce ne rendiamo conto, è lì che nascono poi i nessi più interessanti. Io devo dire, oltre che sulla scrittura, ho lavorato moltissimo sulla costruzione in questo libro, proprio perché non solo la storia della strage è complessa, è una storia che si dipiana su 40 anni tra il presente e il passato, ci sono queste storie di terrorismo neofascista dimenticate, ma anche storie, no, di questi giovani militanti di sinistra, eccetera, perché c'erano molti piani da intrecciare. E lì appunto sono stati molto preziosi tutti i tempi che io ho strappato, anche edotta dagli ottimi consigli del poeta, per lasciare decantare i materiali nella testa e lasciare che in essi comunque si costruissero da sé, perché poi la parte più gratificante del lavoro è quando tutto comincia a incastrarsi e devi solo correre dietro con la penna e scrivere. Senta, questa idea del tempo morto mi ha fatto pensare anche molto al tempo, per esempio, dell'infanzia, no? Cioè, c'è un tempo nell'infanzia, forse oggi per i bambini è un po' più difficile, però forse per la nostra generazione c'è stato un tempo in cui il pomeriggio ci si annoia. Esatto. Non so se lei se lo ricorda, però invece ho un ricordo molto vivido del bisogno di colmare questi tempi lunghissimi in solitudine e colmarli appunto in quello che poi, vabbè, adesso mi vengono in mente le cose bellissime che ha scritto Winnicott sul gioco, no? Su questi spazi di transizione tra la realtà e l'immaginazione. Però sì, c'è qualcosa di, in effetti, di molto simile. E ha detto una cosa molto bella in realtà, perché effettivamente l'esperienza della scrittura, che è un lavoro che richiede molta costanza, molto metodo, appunto la disciplina dello scrivere la mattina presto, così se vogliamo, ha invece anche questa parte in cui, quando si riesce a lasciare aperti degli spazi, in effetti si sperimenta una forma di libertà creativa che dà un piacere che è molto simile a quello del gioco quando si è bambini. In effetti è molto vero. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica alle 13:30. Potete riascoltarci in podcast, l'indirizzo per scriverci è laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormi, di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Dolce terra mia, dove non sono stato mai. Thank you.